tra Italia e Germania, lei tifa, no, siccome ci sono molti leghisti, certo, molti leghisti in che campo, in campo sportivo io tifo Italia. Italia. In campo sventola... politico a me va bene la dittatrice Merkel. Ma sve... ah, addirittura. Ah, addirittura. Perché l'ho sempre detto, sì, che la Germania ha comandato, sì, comanda, come? Sì, e comanderà ancora. E le piace? Lei la il Deus ex machina dell'Europa, gli altri sono mammole, portaborse, hai capito? Mammolette. A lei piace la Germania, la Germania che comanda, a lei piace, eh? Certo, mi piacciono le marce militari tedesche e austriache. Mi piacciono le marce del mio tempo, hai capito? Quali? Cioè, quelle del nazismo, dice lei. Sì. Dei miei tempi di balilla, di avanguardista, quando noi la gioventù, la gioventù balda e forte, la maschia gioventù, camminava per le strade, hai capito? Sì, cantando le nostre canzoni.